Yo. Ho visto gente con le spine al culo correre più non si può. E se gli chiedi dove vai ti risponde non so. Perciò a bocca chiusa non discorrere, è tutto scritto già, il destino è correre. Ho visto cose funzionare all'incontrario, schiene rotte solo per sbarcare un lunario. Ho visto gambe aperte solamente per il grano, stessi occhi che si sognavano già lontano. Ho fatto sbagli grandi quanto delle case, nascosti dall'età, ho creduto fosse una fase. Il mio problema che persiste nel non cambiare, io che cresco insisto sempre nell'errare. Ho visto facce sgretolarsi come terra sole, spaccate dalle storie, spaccarsi da sole. La colpa sempre agli altri, ognuno ha le sue parti. Ho visto un posto dove cazzo non puoi più fidarti. Ho visto cose da lontano e mi sono defilato, due cose da vicino che sul conto m'ha segnato. Presa decisione non ti puoi voltare, perché voltarsi pone il rischio di farsi male. Ho visto cose da lontano e mi sono defilato, due cose da vicino che sul conto m'ha segnato. Presa decisione non ti puoi voltare, perché voltarsi pone il rischio di farsi male. Sto pesi sullo stomaco, squarciare delle teste, rimorsi consumare gente come peste. Ho visto amore nel calore della felicità, ho visto amore mentre muore causa fascità. E vedo stelle cadere, fare cielo così buio, con ciò che c'è di certo diviene poi sicuro. Ricordi accumularsi, pensieri troppo sparsi, gente nella merda che non sa dove attaccarsi. Promesse disegnate in una spetta tra le mani, vedere chi mantiene, quali invece sono infami. Ti stacchi dalla gente non perché non vuoi più bene, perché ho diverso l'orizzonte che li vede. Ho visto bocche di giustizia favorire compari, ho visto gente che si sfoga solo sopra diari. E dopo pianto ho trovato la mia soluzione, e non guardarsi indietro dopo presa decisione. Ho visto cose da lontano.